Lottiamo per amori che ci sfuggono di mano, lottiamo per valori che ci guardano strano. Una barca a vela in balia del vento, una ragnatela in pieno centro. Il tetto fa acqua da tutte le parti, non lasciano traccia i nostri rimpianti. Fogli riempiti buttati al vento, l'estate spese a fuggire il cemento. Ci sono isole troppo lontane verso cui non puoi non andare, e anche se non le raggiungerai mai ti diranno chi diventerai. Ci sono sorrisi belli da far male verso cui non puoi non guardare, e anche se non li ricorderai ti diranno chi sarà. Siamo stati al Cairo, a New York e a Pechino, siamo stati a Sydney, a San Paolo e a Berlino, ma il fuoco che ci brucia dentro non mostra i segni del tempo. Abbiamo corso, nuotato e saltato, dormito a pomeriggio e inoltrato, cercato risposte in un cielo stellato, fatto domande nel posto sbagliato. Isole troppo lontane verso cui non puoi non andare, e anche se non le raggiungerai mai ti diranno chi diventerai. Ci sono sorrisi belli da far male verso cui non puoi non guardare, e anche se non li ricorderai ti diranno chi sarà. Con le nostre certezze siamo fidati delle promesse, ma il gioco col nostro destino è finito a dare luce vino. Abbiamo lottato fino a perdere il fiato, l'equilibrio perso e poi ritrovato, proprio quando non avremmo mai detto ho sbagliato, ora lo ammetto. Isole troppo lontane verso cui non puoi non andare, e anche se non le raggiungerai mai ti diranno chi diventerai. Ci sono sorrisi belli da far male verso cui non puoi non guardare.